Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Giugno 1988. Siamo a Londra, nel mitico Wembley Stadium, tempio del calcio e della musica che oggi non esiste più, sostituito da un impianto molto meno poetico, ma ultramoderno e avveniristico. Ci sono quasi 100.000 persone quel giorno a Wembley. C'è un evento destinato a segnare la storia e non solo quella della musica. Il concerto tributo per i 70 anni di Nelson Mandela. Mandela è in carcere da 26 anni, imprigionato perché leader della lotta anti-apartheid nel Sudafrica, squassato dal dramma della segregazione razziale. Nonostante la lunga prigionia, la figura di Mandela è diventata simbolicamente sempre più forte, fino a diventare un'icona, una bandiera. Quella sera a Wembley, decine di artisti e decine di migliaia di persone si ritrovano per lanciare un grido: Mandela libero e stop all'apartheid. Il concerto sarà trasmesso in 67 paesi, raggiungendo, si ipotizza, quasi 600 milioni di persone. Un evento straordinario. Il critico Robin Denslow della BBC definirà il concerto il più spettacolare evento pop e politico della storia. L'evento è stato fortemente voluto dall'impresario Tony Hollingsworth e dal capo del movimento anti-apartheid di Londra, Mike Terry. I due sono riusciti a trascinare su quel palco artisti straordinari. Sting, gli Eurythmics, George Michael, i Dire Straits, in una fenomenale esibizione con Eric Clapton. In mezzo a questi mostri sacri, in quella serata magica, si esibisce anche una giovanissima ragazza afroamericana che con voce e chitarra emoziona profondamente la folla presente a Wembley e scalda i cuori delle persone a casa. Ha il viso da bambina, ma lo sguardo intenso e profondo, le treccine sparate verso il cielo, un timbro vocale scuro e vibrante. Ha da poco inciso il suo debut album, che come titolo ha il suo nome, Tracy Chapman. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Per questa giovane cantautrice, quell'evento è un trampolino di lancio straordinario che mette il sigillo a un anno per lei da incorniciare, il 1988, e definisce in maniera netta le sue caratteristiche artistiche. Testi intensi, impegnati e intimi, voce da contralto, attivismo sociale e politico, sempre in prima linea per i diritti delle minoranze. Questa, in sintesi, è Tracy Chapman. Of America, they kill the dream of America. Chi è davvero Tracy Chapman? Chi è quella minuta ragazza afroamericana che incanta dal palco di Wembley? Nel 1988 Tracy ha 24 anni. È nata nel marzo del 1964 in un quartiere operaio di Cleveland. Sono cresciuta solo con mia madre. Non avevamo molti soldi, ma lei ha sempre incoraggiato la mia passione per la musica. Tanto che, mi ricordo, mi ha regalato un ukulele quando ero ancora molto piccola ed in seguito è riuscita a pagarmi le lezioni di chitarra. Le sue umili origini sono sicuramente una fonte di ispirazione per la sua musica e una fucina per il suo carattere forte. Grazie a delle borse di studio, Tracy riesce a completare gli studi fino alla laurea in antropologia e cultura afroamericana, conseguita a Boston. parallelamente porta avanti la sua passione per la musica e in particolare per la chitarra, iniziando a esibirsi nei locali del Massachusetts, portando sui palchi dei vari club le sue prime composizioni, pezzi per solo voce e chitarra, contenuti che raccontano delle sue umili origini e delle difficoltà della popolazione afroamericana. Avevo un discreto successo nel circuito di club e locali che mi ero creata. Era un successo di nicchia che mi permetteva di guadagnare il giusto per pagarmi le varie spese. Del resto, componevo musica per me, per esprimere me stessa, le mie idee, ciò che avevo dentro. Non ho mai composto musica per piacere agli altri. Forse è per questo che il successo è arrivato tardi e quasi per caso, ma a me stava bene così. Dai club del Massachusetts alla prima opportunità discografica, Tracy arriva grazie a un suo compagno di studi, il suo primo magnifico destino, Brian Koppelman. Koppelman oggi è uno sceneggiatore di successo. Ha scritto film come Ocean 13 e Il Giocatore e ha anche prodotto pellicole che hanno fatto il giro del mondo come The Illusionist. All'epoca Brian era un compagno di studi di Tracy all'università e un appassionato di musica. Qualcuno mi segnalò che quella ragazza che vedevo a lezione era un'ottima cantautrice che scriveva canzoni anche molto impegnate sul piano sociale. Così andai a vederla. È curioso ricordarlo oggi perché si trattava di uno show identico a quelli che Tracy ha continuato a fare anche davanti a stadi pieni, solo che davanti a lei c'erano 100 persone in un clima intimo e molto raccolto. Un'atmosfera davvero magica. Andai da lei e le dissi: «Senti, odio presentarmi così, ma penso che mio padre potrebbe davvero darti una mano». Lei non sembrava molto interessata, a dir la verità. Tracy è sinceramente poco interessata al denaro e alla carriera. Brian Koppelman è figlio di Charles Koppelman, che è un produttore molto importante e ha da poco fondato la SBK, una maxi etichetta indipendente. Il figlio parla al padre di Tracy, spinge perché venga a sentirla. Charles Koppelman ascolta il figlio, va a sentire Tracy e ne rimane folgorato. La mia impressione fu che lei avesse qualcosa che il pubblico andava cercando proprio in quel momento. Un mix di dolcezza e di combattività. Ho pensato, questa ragazza viene fuori proprio al momento giusto e ha canzoni che potrebbero davvero funzionare. Erano pezzi profondi, ma immediati, che creavano subito un rapporto intimo con chi le ascoltava. Sono i primi passi che portano Tracy Chapman verso il suo straordinario debutto. Tracy infatti accetta la proposta di Koppelman, che la affida al produttore esecutivo David Kirschenbaum, che aveva precedentemente lavorato con John Baez, Cat Stevens e Joe Jackson. Kirschenbaum mette insieme una piccola band che supporti Tracy in studio, ma il suo intervento sugli arrangiamenti e sui brani è davvero limitato. Tracy, nonostante la poca esperienza e la giovane età, era già una persona molto stabile, con la testa sulle spalle, obiettivi molto chiari. Sapeva esattamente cosa voleva esprimere con la sua musica. Anche vocalmente era molto solida, disinvolta durante le sessioni di registrazione. Tracy ha moltissimo materiale tra cui scegliere per il suo debut album. Opta per 11 pezzi e decide di dare il suo nome al disco, semplicemente Tracy Chapman. Quando l'album è pronto, Kirschenbaum decide di mandarlo a Elliot Roberts, manager della Elektra, per un parere. Ho provato esattamente la stessa sensazione che ho provato quando ho sentito per la prima volta Joni Mitchell. Ogni canzone, ogni pezzo, ogni strofa è commovente, è toccante. In ogni singola nota si sente la passione. Appena l'ho ascoltato, ho capito che questo disco, beh, è il nuovo disco e vogliamo distribuirlo noi. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. L'album Tracy Chapman viene così pubblicato dalla Elektra il 4 maggio del 1988. Raccoglie recensioni entusiastiche e le classifiche impazziscono. I pezzi parlano di esistenze in mezzo alla strada, mescolano folk e blues in arrangiamenti in cui domina la chitarra acustica di Tracy. Agli sgoccioli dell'epoca reganiana, edonistica e ipocritamente scintillante, Tracy Chapman ha la forza di dipingere con leggerezza un'altra realtà, il cui mito del sogno americano ha i contorni malinconici di chi è costretto a rimanere ai margini. Brani come Talking About a Revolution e il suo gemello Fast Car saranno l'alternativa ai singoli più pop dell'estate che sta iniziando. merito di una serie di melodie azzeccate intense e di una strumentazione in cui domina la chitarra acustica, vicina agli esordi, primitivi ma efficaci, di Bob Dylan. Molti critici, infatti, parlano di Tracy come di una versione al femminile e afroamericana di Bob Dylan. People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. La Elektra, che ha distribuito il disco, si occupa anche dell'organizzazione del tour promozionale. Viene suggerito a Tracy di abbandonare la sua idea iniziale di formare una band che andasse a supportarla a favore di esibizioni più intime, voce e chitarra acustica con lei sola sul palco. Il tour viene costruito gradualmente, prima a piccoli club, situazioni che Tracy era abituata a gestire, poi palazzetti con 10.000 persone, poi arriverà il concerto per Mandela e una folla oceanica. Intanto l'album di debutto vende copie su copie e scala le classifiche. Ciò nonostante, Tracy non perde la sua semplicità e la sua natura un po' schiva. Non avevo mai creduto troppo alla mia musica e questo forse mi ha mantenuto fuori dai giri peggiori dello show business. La Chapman, infatti, è lontanissima dalle classiche star da MTV e dalle altre pop singer che gli anni 80 avevano prodotto. Si può dire che Tracy Chapman costituisce una vera e propria novità nel panorama musicale della fine degli anni 80. L'album di debutto raccoglie recensioni entusiastiche ovunque nel mondo e la Chapman diventa portabandiera di tutti i giovani artisti socialmente impegnati. Deep in my heart, deep in my heart, look at me losing control, oh, oh, thinking I had it, oh, oh, oh. Feelings this strong, no longer the master of my emotions. Tracy Chapman alla Wembley Arena, in occasione dell'intenso concerto per i 70 anni di Nelson Mandela, è un'immagine struggente di una giovane donna armata solo della sua chitarra, delle sue poesie, della sua testardaggine, che affronta un vasto pubblico, richiamato certo dai suoi colleghi più famosi, ma ammutolito davanti alla sua esibizione. Un pubblico che si appassiona alla maggior parte dei pezzi di quell'album, che rimane una piccola gemma e uno dei migliori debutti degli ultimi anni. Il suo modo di cantare è particolarissimo e lo dimostra in pezzi come Behind the Wall, racconto di violenza familiare cantato a cappella con una calma intensità. È un tratto del suo carattere schivo, ma che diviene anche una caratteristica formale di ogni suo lavoro. Dal primo album viene realizzato anche un videoclip. La regia viene affidata a Matt Maurin. Il pezzo è il più celebre e famoso di quel disco, un brano destinato a diventare un classico, tanto che ad oggi non si contano nemmeno le cover che di esso sono state fatte. Si intitola Fast Car. A livello di contenuto affronta lucidamente i problemi tipici dell'America nera di periferia, la disoccupazione, le difficoltà di avere i sussidi per vivere. Tracy parla di tutto questo con un tocco leggero, delicato e poetico, dando al sound un soffio tenue di malinconia. È un tratto distintivo del suo carattere, che rende la sua musica genuina e sincera, e fa sì che nel 1988 nasca una stella. I magnifici destini. Oggi, ai magnifici destini, vi stiamo raccontando la storia della più importante cantautrice americana degli anni 90. Una storia che inizia nel 1988, nelle ultime fasi dell'America reaganiana. In quell'anno Tracy Chapman, classe 1964, giovane afroamericana, fa il suo esordio folgorante con un album omonimo in cui fonde impegno civile e lievi melodie tessute con la chitarra acustica e con una voce calda, accattivante. Successivamente all'uscita dell'album, per Tracy arriva il tour. Oltre alle canoniche date di supporto, arrivano una serie di eventi di eccezionale importanza, che testimoniano tanto il carisma della cantautrice quanto il suo impegno civile. La serie di mega concerti che la lancia definitivamente è quella organizzata da Amnesty International, denominata Human Rights Now. Questo tour viene organizzato in occasione del 40° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Dura circa un mese e mezzo e prevede 20 date in tutto il mondo, in cui si esibiscono artisti come Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel. Accanto a loro, Tracy Chapman. La serie di concerti Human Rights Now, organizzata da Amnesty International, mi sembra molto seria e per questo ho partecipato subito attivamente. So che molte persone si sono iscritte al movimento pacifista dopo aver assistito ai nostri concerti e magari sono diventate degli attivisti. Sono convinta che abbia portato anche una certa pressione sui politici. In una parola, penso che quegli spettacoli avessero un fine ben preciso, un bersaglio ben definito. Il tour inizia il 2 settembre 1988, ancora a Wembley, per chiudersi il 15 ottobre a Buenos Aires. Tracy ha la possibilità di esibirsi insieme ai mostri sacri della musica pop internazionale e dimostra grande disinvoltura nel gestire anche i palcoscenici più importanti. Il 1988 è stato per me un anno straordinario. Ho avuto la fortuna di cominciare quando ancora fra i discografici c'era gente che amava la musica e non pensava solo a far soldi. Oggi invece puntano tutti al successo immediato, una strategia sulla breve distanza che non fa crescere gli artisti. Chissà, forse se non avessi avuto successo col mio primo disco, adesso non sarei qui. Il tour per Amnesty conferma tutta l'attenzione intorno a Tracy. Il suo modo di stare sul palco, disinvolto ma allo stesso tempo schivo, affascina e cattura il pubblico. In un mondo spietato come quello del music business, però, è normale che tanto il pubblico quanto la critica, dopo un grande successo, ti aspettino al varco. È quello che succede anche a Tracy Chapman, per la quale il secondo album diventa una vera e propria prova del fuoco. Il suo secondo lavoro si intitola Crossroads. L'album è in qualche modo l'ideale prosecuzione del debutto. Anche in questo caso Tracy cerca di raccontare l'altra America, quella di chi sta ai margini del cosiddetto sogno americano. Stavolta Tracy decide di raccontare le sue storie non con la lingua del folk intimo del debutto, ma con le unghie graffianti di un rock alla Springsteen. Emblematica è la trascinante Born to Fight. L'album è dedicato a Nelson Mandela. Rispetto al precedente ci sono più tematiche universali e più politiche. Prodotto sempre da David Kershenbaum, non ha però l'accoglienza trionfale dell'album di debutto. Comunque ottiene ottime recensioni e una buona attenzione da parte del pubblico. Alcuni critici però iniziano a evidenziare un limite di Tracy. Il suo carattere troppo schivo e riservato fino all'eccesso sembra stemperare l'efficacia dei messaggi di protesta di un'artista impegnata politicamente. Ho sempre cercato di rimanere fedele a me stessa, di non forzarmi, anche a livello caratteriale. Credo che di questo abbiano beneficiato le mie composizioni, che sono sempre state autentiche, vere. Ecco, ho sempre pensato che questa fosse la cosa più importante per me, molto più che diventare una stella. Stella o meteora? Il confine è sottile e l'interrogativo avvolge la figura di Tracy Chapman. A far pendere per ora la bilancia dalla parte negativa della meteora è il terzo album, Matters of Arts. La title track, scelta come primo singolo, è una storia d'amore. Non è la prima della carriera di Tracy, che già nell'album d'esordio con Baby Can I Hold You si era cimentata con questo genere di pezzo, ma rispetto al debutto, Matters of Hearts è più debole, meno originale, meno efficace. I asked before, your reply was kind and polite. One once more. When one's denied, I make a fool of myself. It matters of the heart. Certo, il talento di Tracy rimane cristallino e indiscutibile, e la sua voce è sempre calda ed emozionante. Non mancano poi alcuni pezzi fortunati come Bang Bang Bang. One day he may come back. Be best for when we're done. Then where you gonna run to? We're gonna run. but one fine day all our problems will be solved. Bang, bang, bang, we shoot him down. Ma il resto dell'album va sbiadendo pezzo dopo pezzo. Le vendite calano enormemente, la critica storce il naso. Ciò nonostante, Tracy viene coinvolta in un altro mega evento live. Si tratta del concerto che nel 1992 celebra i 30 anni di carriera di Bob Dylan. Il concerto avviene in un clima magico, il 16 ottobre 1992 al Madison Square Garden di New York City. Obiettivo degli organizzatori è quello di ricavarne anche un CD e una registrazione video per il mercato home video. Allo show partecipano numerosi tra i principali artisti della scena pop rock internazionale, che omaggiano la carriera del cantante con la loro presenza e con l'esecuzione di cover di Dylan. Verso la fine dello show, lo stesso Dylan è previsto sul palco per eseguire un paio di brani in forma acustica e un paio in compagnia degli artisti che lo hanno omaggiato, schierati al gran completo. Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Tracy, invitata all'evento, accetta molto volentieri. La sua visione della musica è in piena sintonia con quella di Dylan e nonostante il non felicissimo album dato alle stampe poco tempo prima, Tracy emoziona il Madison Square Garden con una straordinaria versione di The Times They Are Changing. For the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, and the loser now will be later to win. For the times they are changing. In ogni caso, dopo il concerto per Dylan e dopo l'album non soddisfacente, Tracy Chapman decide di prendersi una pausa di riflessione di 3 anni, necessaria per capire in che direzione artistica andare e per concedere una tregua al suo carattere schivo e refrattario alle luci della ribalta. Il suo sarà però un ritorno in grande stile. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. I magnifici destini. Gonna love myself more than anyone else. Gonna treat me right. Gonna make you say that you love me first. You be the one with the most to lose tonight. This time. Oggi ai magnifici destini una delle voci più belle della musica pop degli ultimi decenni, Tracy Chapman. La cantautrice afroamericana vive un esordio folgorante nel 1988 con un album che porta il suo nome e che vende milioni di copie, trasformandola in un fenomeno musicale inaspettato. Poi un lieve declino, una natura schiva che rifugge dalle regole dello show business, una carriera che sembra caratterizzata da una profonda discontinuità. Tracy arriva a maturare la necessità di una pausa di riflessione. Ritorna nel 95 con un nuovo magnifico destino, il produttore Don Gammon, con cui realizza l'album New Beginning, il suo maggior successo di vendite. Gammon è uno dei maggiori produttori americani degli ultimi 30 anni, uno per intenderci che ha lavorato con gente come Rem, James Brown e John Mellencamp. Per il disco del rilancio, Tracy decide di rivolgersi a lui. Gammon accetta di buon grado dopo aver ascoltato il nuovo materiale composto da Tracy e lavora sul motore di quei pezzi, arrangiamenti e sound. Il primo elemento che denota l'intervento di Gammon nell'album è la varietà. Il disco alterna ballate folk rock a pezzi più ritmati. Molti brani si avvalgono, caso quasi unico nella carriera di Tracy, di coristi e controcanti che rendono più pieno il sound. Si fa notare anche una sorprendente canzone blues come Give Me One Reason, il primo singolo estratto dall'album. Baby, I got your number. Oh, and I know that you got mine. L'album vende molto bene. Parte male per la verità, ma dopo poche settimane trascinato dal primo singolo, inizia a scalare le classifiche, diventando presto disco d'oro. Il periodo di riflessione che mi sono presa mi è servito per ricaricare le batterie. New Beginning è stato davvero un nuovo inizio per me, l'inizio di un nuovo periodo di ispirazione. Per questo forse l'album ha un timbro più ottimista, perché l'ho scritto in un momento in cui sentivo di aver voglia di lottare, di esprimermi. L'album complessivamente ha un sound più chiaro e positivo dei precedenti. Questa positività si avverte anche nei testi. Dopo avere composto album prevalentemente di denuncia, ora Tre si propone brani che inneggiano al cambiamento e invitano ottimisticamente ad impegnarsi attivamente per un mondo migliore. Tracy e Don Gellman lavoreranno altre volte insieme, in alcuni album successivi della cantautrice, la cui carriera però rimarrà sempre segnata da alti e bassi repentini e importanti, da momenti di gloria e momenti di oblio. Ciò che non verrà mai meno in Tracy Chapman è l'impegno sociale e civile. Tracy parteciperà al Farm Aid, il tour a supporto dei contadini poveri d'America, al Festival per l'indipendenza del Tibet, al Vote for Change contro George Bush, al tour per la San Francisco AIDS Foundation e molti altri, dimostrando sempre grande impegno e sensibilità. Fa rumore però anche un suo gran rifiuto, quello di partecipare al Live Aid di Bob Geldof, che Tracy motiva così. Non capivo esattamente cosa ne pensassero del problema del debito dei paesi poveri. Mi sembrava più che altro che volessero fare molta pubblicità, quasi una mossa politica furba, quella di mettere in scena tanti artisti conosciuti ma senza un progetto solido. Francamente non mi sembrava la risposta giusta al debito dei paesi poveri. E pensare che allo stesso momento a Edimburgo c'era il G8 mi sembrava un controsenso rispetto a quello che la serie di concerti avrebbe dovuto portare avanti. Ecco perché ho declinato l'invito di apparire a Berlino. Secondo me è più importante educare le persone a capire il perché alcuni paesi si devono indebitare per poter sopravvivere. Perché in molti casi le nazioni sono povere, ma i politici nello stesso Stato si arricchiscono con i soldi che provengono da paesi più ricchi. Una carriera discontinua e intermittente, quindi, quella di Tracy Chapman, che non è forse più riuscita a raggiungere i fasti degli esordi, ma ha saputo mantenere uno sguardo lucido sul rovescio della medaglia del sogno americano. Uno sguardo sulle tante figure che vivono necessariamente ai margini del progresso e della società. Il pregio maggiore di Tracy, comunque, è stato indubbiamente quello di non omologarsi allo show business, di rimanerne fuori, dimostrando un'indipendenza di spirito e una libertà artistica che attestano la sua assoluta coerenza intellettuale e la sincerità della sua ispirazione. Non ho mai messo come priorità assoluta quella di diventare a tutti i costi una cantante conosciuta, e le mie scelte artistiche di vita sono lì a dimostrarlo. Ci sono artisti che hanno impegnato energie per rimanere ai livelli di conoscenza pubblica assoluta. Non li biasimo, ma io non sono così. E nemmeno avevo una casa discografica che mi spingeva ad avere continui successi. Anzi, quando uscì il primo disco fu una grossa sorpresa per tutti, anche perché il rock acustico non era davvero popolare all'epoca. Al giorno d'oggi poi i media creano le celebrità con i reality show e robaccia del genere, tutti i momenti. Quindi davvero non mi dispiace che la grande fama di quell'anno non sia continuata, magari fino a gonfiarsi all'inverosimile. Preferisco il rispetto di chi ama la mia musica.